Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi comincerei da un editoriale, quello firmato da Franco Arturi sulla Gazzetta dello Sport. Per me questa è un'opinione molto personale, mi rendo conto, ma insomma Franco Arturi resta un'oasi all'interno della Gazzetta dello Sport, sia per la sua rubrica della posta che esce il mercoledì e il venerdì, sia per qualche articolo suo che ogni tanto esce. Devo dire che tra il titolo di testata di oggi della Gazzetta, della copertina, che suona così: Milan falli Werder, e quello che scrive Franco Arturi, per me, ripeto, Franco Arturi rimane un'oasi. Allora, l'articolo di Arturi è il seguente: se il calcio italiano è così, vogliamo vederlo tutte le settimane. Parole del telecronista Guy Mumbray sulla BBC a conclusione della prima telecronaca stagionale di un incontro del nostro campionato, cioè Inter Milan. È stata una partita fantastica, convenuto dallo studio Alan Hansen, stopper del Liverpool pluridecorato degli anni Ottanta. Giro la pagina per la lettura migliore. Un riconoscimento significativo, nota Arturi, ricordando quanto possono essere spocchiosi gli inglesi quando si degnano di parlare del calcio italiano. Nel caso specifico, poi, avevano proprio ragione. Il derby di Milano è stato un grande episodio agonistico, contrappuntato da una serie di prodezze tecniche e di storie umane di primo piano. Adriano pochi mesi fa ammetteva le sue difficoltà sull'alcol, rieccolo grande. Ronaldinho ha fatto la sua miglior partita da 2 anni a questa parte, geniale. Ibrahimovic è stato strepitoso nella sua espressione tecnica e atletica. Pato ha fatto capire al mondo che è un fenomeno allo stato nascente. Il tiro e l'inserimento di Stankovic sono gemme da mostrare alle scuole calcio. C'è stato poi l'atto finale di Maldini nella storia del derby e il magnifico avvio di Santon e così via. Che cosa è rimasto di tutto ciò nel sentire del tifoso medio di Inter, Milan e anche Juventus? Solo un furioso batti e ribatti sul fallo di mani di Adriano e sul conseguente processo lampo sui rigori che c'erano e non c'erano, sulle ammonizioni di Ambrosini, su chi ha aiutato chi. Gli sfoghi che affluiscono ai giornali hanno perso per strada la magia e la spettacolarità del gioco in sé, le abilità dei singoli e delle squadre. Non se ne curano proprio. L'opinione pubblica viene così derubata, un autofurto per la precisione. Non solo. Dopo una partita di questa intensità, le reazioni stizzite di cui vi parliamo marcano in modo lampante anche un distacco netto con chi era in campo. Infatti gli episodi controversi, compresi quelli scoperti solo a posteriori, non hanno mai portato particolari tensioni e nervosismo in chi stava giocando. Si stava giocando uno scudetto. Perfino le proteste a caldo sono parse davvero il minimo sindacale, toni soft ed educati. Loro, i protagonisti, sanno che è accaduto quello che può succedere in una partita di calcio, dove l'imperfezione e il caso contano quanti numeri di Ibra e Ronaldinho, e non se ne stupiscono. Finale. Ma perché andiamo allo stadio o stiamo davanti alla TV in definitiva? Per celebrare sacrifici alla moviola, divinità occhiuta, o per divertirci coltivando il nostro infantilismo benedetto? Dovrebbero essere interrogativi retorici con risposta incorporata. Non è più così, purtroppo. Solo da Londra, pensa tu, possono spiegarci che abbiamo prodotto una gran bella serata, noi non ce ne eravamo accorti nella confusione. Questo, ripeto, l'editoriale firmato oggi da Franco Arturi sulla Gazzetta dello Sport. Oggi modifichiamo un tantino la scaletta perché siamo in attesa di collegarci con il Ministro degli Esteri, con Fabio Tavelli, per riaprire la pagina internazionale, visto che stasera ritorna in campo la Coppa UEFA e manca una settimana scarsa ormai al ritorno della Champions League, che finalmente in febbraio, con l'eliminazione diretta, può tornare a essere chiamata a buon titolo Coppa dei Campioni. Sentirei quindi subito un ascoltatore che si è già prenotato, che è Giampaolo da Genova. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io sono un tifoso genuano e quindi però sono sempre d'accordo con lei su tutto quello che dice, anche compreso quello che ha detto lunedì sugli insulti all'arbitro domenica allo stadio. Però voglio dirle che anche a proposito di quello che ha appena letto, le dichiarazioni di Preziosi stamattina sulla Gazzetta secondo me sono già un indirizzo che spero che la società segua d'ora in poi. Che il pubblico segua d'ora in poi. Anche il pubblico, sì, perché io purtroppo ho sentito domenica delle dichiarazioni sul fatto che il Genoa non si è presentato in sala stampa, è una società da parrocchietta così. Però meglio stare zitti piuttosto che dire quello che hanno detto, per esempio, dopo il derby di Milano. Cioè, da quel punto di vista mi sembra meglio. Poi sul pubblico le do perfettamente ragione. O meglio, rispetto anche a quello che hanno detto i genuani stesso dopo Roma-Genova. Ma io le dico che qua a Genova c'è una campagna sul fatto che io non ero allo stadio. Però tifosi imparziali mi hanno detto che non c'è stato questo grande scandalo. Però le dico che anche le televisioni locali qua Rizzoli l'hanno massacrato. Io onestamente ho visto Cesare che, sapendo che è genuano, ha detto che le decisioni erano giuste e me ne sono stato. Giampaolo, il campanilismo è una brutta bestia anche questa, cioè il tifo campanilistico lo è a maggior ragione. Questo vale per giornali, vale per televisioni, vale per tutti. Si vende, la regola prima è vendere, e per vendere stravolge la realtà. Non è un'impresa. Io ho sentito dire, ho sentito parlare, ho sentito raccontare, ho letto e mi hanno detto che anche le TV locali, come lei ricordava, hanno parlato di cioè, insomma, il leitmotiv era questo Rizzoli che ha pilotato la partita in senso antigenoano. Una squadra che arriva a vincere 3-0 contro l'arbitro, credo, con un arbitraggio contrario, credo che non sia mai esistito sulla faccia della terra. Bene ha fatto il presidente Preziosi, di cui non ho mai avuto grandissima stima, ma devo dire che il suo intervento di ieri, così accorato e così articolato nei confronti di tutto l'ambiente genovano, che evidentemente si è un tantinello sovraeccitato per questa nuova dimensione raggiunta meritatamente dalla squadra, è stato quanto mai opportuno ed è stato un segnale vero, che adesso tocca ai genovani, che tocca alla tifoseria adesso, ma anche alla squadra, anche alla guida tecnica, secondo me, a sua volta un po' sovraeccitata, tocca a loro adesso raccogliere questo monito del presidente. Sentiamo ancora un ascoltatore, che è Gianluca da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno, senta, io volevo fare un intervento a proposito del derby di Milano passato in relazione all'articolo citato da lei della Gazzetta dello Sport di questa mattina. Sì. Mi piacerebbe che nel calcio di oggi, con tutte moviole, non moviole, articoli, insomma tutte stupidate che si dicono ovunque, che mi piacerebbe che veramente si tornasse a parlare del calcio giocato, che non si parla mai in tutte le trasmissioni sportive. Stile a guardare il fallo di mano, se non è fallo, se è fallo, se non è fallo, quando invece mi piacerebbe che veramente venissero, come dire, affrontati problemi più squisitamente tecnici. È quello, la ringrazio Gianluca, è quello che almeno qua ci sforziamo di fare nei limiti del possibile, perché per esempio il lunedì, cedendo la parola agli ascoltatori e lasciando che siano loro a fare la scaletta, risulta vagamente difficilino. Oggi parliamo, per esempio, vi dicevo, partiamo dal calcio internazionale per poi planare su vari altri argomenti, compresi per l'appunto gli echi milanesi. Torno alla Coppa UEFA, stasera tocca a Milan e Sampdoria, domani a Fiorentina Udinese, dunque bentornato a Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Insomma, come andranno queste quattro partite di Coppa UEFA? Poi lo vedremo e lo commenteremo con calma. Il fatto vero del giorno in campo internazionale me l'ha segnalato Nicola Filippone su 24 minuti, che ricordo sempre il pomeridiano del Sole 24 Ore in distribuzione gratuita a Milano e a Roma. Stasera Van der Sar, che ha già il primato di imbattibilità in campionato con 1212 minuti, può battere addirittura quello europeo. Se non subisce gol nei primi 64 minuti di Manchester United Fulham, cioè del recupero di stasera, batte il record europeo di Abel Resino, ex portiere e attuale tecnico dell'Atletico Madrid, che per l'appunto detiene questo primato. Beh, insomma, per uno che era andato via dall'Italia con l'etichetta di Colabrodo, non è malissimo. Sì. Sì, lui fu molto sfortunato. Ora, io trovo che ci siano 7-8 portieri certamente più bravi di Van der Sar. Sappiamo bene che la concatenazione deve essere notevole per non prendere gol, cioè una buona difesa, un centrocampo che copre, cioè tutte le varie banalità che è normale anche enunciare. Detto questo, Van der Sar sta giocando certamente la miglior stagione della sua carriera, è un portiere che ha una particolare sensibilità sui calci di rigore, basta chiedere al Chelsea, e sicuramente è arrivato a una maturazione perfetta per quanto riguarda evidentemente aspetti non solo tecnici ma anche umani, nel senso che quest'anno ha trovato la dimensione ottima per rendere al massimo. Ora il Manchester United in questo momento sembra infermabile, ripeto sembra, perché poi il calcio tante volte riserva molte sorprese. Credo che ci sia e che ci sarà una pressione fortissima, perché tutti sanno di questo minuto famoso entro il quale Van der Sar non deve prendere gol, non vorrei davvero che ce ne fosse troppa di pressione da questo punto di vista. Per cui, insomma, ben venga il record, ma ecco, cioè, anche se non dovesse farlo, credo che resterebbe comunque la grande prestazione, il grande momento del Manchester United, che è in corsa per 5 competizioni, non dimentichiamocelo, e ne ha già vinta una discretamente prestigiosa come il mondiale per club. Quindi, ripeto, anche se non dovesse farcela, rimarrebbe una prestazione fantastica e quasi irripetibile al giorno d'oggi. Certo, tra l'altro vedo la tabella pubblicata per l'appunto da 24 minuti che il record mondiale è lontanissimo. Allora, i record sono: in Italia è Sebastiano Rossi nel 94 col Milan 929 minuti, europeo 1275 minuti di questo Abel Resino del Madrid nel 91, atletico. Nel mondo è il portiere del Vasco da Gama del 78, Geraldo Mazzaropi, 1816 minuti, quindi ne ha Van der Sar del tempo ancora per arrivare a quel record senza prendere gol. Non so se, dato che abbiamo questi 3-4 minuti oggi soltanto per questo nostro appuntamento, vogliamo già proiettarci sull'antivigilia della Champions o vogliamo restare al Werder, al post, non all'Ajax? Io andrei già, visto che gioca il Manchester United stasera. Direi che, per carità, fermo restando che la Coppa UEFA quest'anno ha una caratura certamente superiore al passato e, insomma, assomiglia di più, soprattutto in questa fase, alla vecchia Coppa UEFA, perché, insomma, sì, quando si incontrano Ajax, Werder Bremen, così, cioè, sono dei nomi che già di per sé stuzzicano, e non a caso il Milan nelle dichiarazioni di questi giorni è un po' tornato a respirare un'aria che certamente le manca molto, come credo alla Champions League manchi parecchio il Milan. Non solo, schiera anche, ti interrompo un istante, schiera stasera la miglior formazione possibile, perché giocano Bonera, giocano Dida, a parte Dida in porta, ma vabbè, questa è un'alternanza normale, Bonera, Sendero, Sfavalli, Zambrotta, Beckham, Pirlo, Flamini, Seedorf, Inzaghi, Ronaldinho, credo che... Dubbio, anche perché il Milan, avendo perfetta cognizione del fatto che lo scudetto è quantomeno difficile da andare a prendere, e le dichiarazioni dei dirigenti rossoneri inizio stagione erano come l'obiettivo numero uno fosse lo scudetto, ora la Coppa UEFA lo diventa in maniera preponderante. Però, giocando il Manchester United, avendo visto la prima apparizione di un Chelsea vagamente ridisegnato da Hiddink, credo che l'attesa vera per le sfide della prossima settimana sia davvero quella, nel senso che poi sabato ci sarà una concatenazione di appuntamenti, per cui ci saranno 6 partite una in fila all'altra, quasi anche con un calendario orario abbastanza favorevole per vederne almeno 4. E quindi sabato vedremo tutta la prova generale delle 3 italiane e delle 3 inglesi. Le inglesi in FA Cup sono andate benissimo, perché il Chelsea ha vinto contro il Watford bene, ha schierato Anelka accanto a Drogba, ed è una cosa che Scolari non faceva mai. E la cosa curiosa, Gigi, è che il giorno dopo chi è che ha attaccato Scolari? Drogba o Anelka? Tutti si aspettavano Drogba perché era lui che non giocava mai, sì, e invece lo ha attaccato Anelka, che era quello che giocava sempre. Sì, che secondo me dimostra una volta in più perché Anelka non abbia fatto la carriera che le sue doti tecniche lasciavano intravedere. Ah, sicuro, sicuro. Diciamo che gli è mancato qualcosa un po' più sopra le gambe. Detto questo, molto più sopra. Sì. Detto questo, l'Arsenal è tornato a schierare Eduardo, secondo me è la storia della settimana, perché questo ragazzo al quale hanno spezzato una gamba, Taylor ha spezzato una gamba, uno del Birmingham, l'anno scorso è tornato a segnare, ha fatto una doppietta a pianto dopo il primo gol di testa, ma soprattutto era uno che a settembre-ottobre, diciamo, era già pronto per rientrare, e una volta che è rientrato ha avuto subito un guaio muscolare, perché evidentemente le ossa si sono messe a posto, ma i muscoli, certo, provati da tutta questa lunga degenza sono saltati, e quindi ha avuto un calvario veramente lunghissimo. Lui era già rientrato con la nazionale, aveva dato anche un assist a Krančar, la nazionale della Croazia, e poi in FA Cup ha trovato finalmente il gol. Brutta notizia per la Roma, perché hanno segnato Bentner, Van Persie ed Eduardo, che insomma sono i tre che si giocano i due posti, visto che Adebayor per tutta probabilità almeno per l'andata non ci sarà. Certo, oggi la chiudiamo qua, anche perché ci saranno gli straordinari poi dalla prossima settimana in avanti, no? per ragioni di coppe, e quindi l'appuntamento con il calcio internazionale un pochino più sintetico. Grazie Fabio. A voi, buona giornata. Torniamo in studio con il collegamento con un amico fidato di vecchia data, il professor Giorgio Simonelli. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. a tutti. Allora, docente pluridocente alla Cattolica di storia del giornalismo, storia della televisione nelle sue varie accezioni, Giorgio Simonelli è rimasto particolarmente colpito dalla richiesta di prova televisiva a carico di Adriano, che poi a parer mio molto giustamente il giudice sportivo Tosel invece ha negato. Perché, Giorgio? Ma perché mi sembra che si stia dando un'eccessiva fiducia a questa prova televisiva. Io dico la verità, ero già abbastanza scettico quando è stato condannato tra virgolette Gilardino, perché si ritiene la televisione garante di una verità che invece è piuttosto relativa, perché insomma alla televisione manca una dimensione, quella si chiama la terza dimensione, certo. Cioè, quindi lo spessore, per cui è difficile stabilire se è la palla che è scivolata sul braccio o se è il braccio che è andato verso la palla affidandosi alle immagini televisive. È vero che è difficile stabilirlo anche sul momento e dal campo, ma affidare alla televisione questa certezza mi sembra veramente un'illusione anche molto ingenua, ecco, perché si delega alla televisione un principio così di verità che la televisione non ha, almeno in questo ambito, ecco. È difficile veramente stabilire se in quel momento la palla è scivolata casualmente su un braccio, se ha toccato o sfiorato il braccio, soltanto sfiorato il braccio, perché l'immagine, come sappiamo, ha un contenuto buono, sostanzioso di illusione, non è che possiamo usarla così come parametro decisivo. Io sarei così anche a questo punto abbastanza favorevole a una forte limitazione della cosiddetta prova televisiva. Che non sa stabilire se uno che ha dato uno schiaffo e l'altro è caduto per lo schiaffo o si è buttato prima che lo schiaffo arrivasse. È vero anche questo. Sai, mi ero distratto un istante perché mentre tu parlavi le agenzie stavano battendo una dichiarazione del presidente dell'UEFA, cioè di Michel Platini. Se ci fosse stato un arbitro in più dietro la porta, la mano di Adriano l'avrebbe vista. In campo non serve più tecnologia, ma servono più arbitri, che è esattamente, mi pare, quello che stavi dicendo. Finalmente abbiamo un presidente dell'UEFA di buon senso, cosa che non era accaduta che due calci a pallone gli ha tirati in vita questo, sua, ecco, che non guasta mai, no? È anche questo, sì. Quindi anche quando si dice ha simulato, ecco, adesso c'è questa idea, ha trascinato la gamba e quindi ha simulato, ma se invece ha trascinato la gamba per altri motivi, non per simulare, ma perché chiunque ha dato quattro calci al pallone, senza essere Platini come è successo a me, sa che uno può trascinare una gamba non necessariamente con la premeditazione di simulare, ma perché, che so, ha visto un ostacolo, non lo so. Magari in qualche caso sì, o comunque in qualche caso sì, in qualche caso no. Mi sembra che si voglia formalizzare un codice sulla base dell'immagine televisiva, che non ha molto senso. Aggiungo, Giorgio, visto che tu dici in realtà c'è questa inflazione di ricorso alla prova televisiva, che nella fattispecie è stato, a parer mio, e non solo mio, particolarmente grave, perché il pubblico ministero era niente meno che il capo della Procura federale, che su tanti altri problemi invece la stessa attenzione non ce l'ha messa. Era nata questa prova televisiva per ragioni, per comportamenti disciplinari. Ora mi pareva già ieri e mi sembra di capire che, nonostante la tua fede milanista, ma sto scherzando, perché insomma, se Dio vuole almeno qua non si ragiona per categorie, faccio una battuta da milanista, insomma, il vero problema è che Adriano non sa colpire di testa, ecco. questo sicuro, perché oddio, se avesse saputo colpire di testa faceva buco nella rete, però no, dico che se era nata per problemi disciplinari e per fatti sfuggiti all'arbitro, allora io credo che domenica sera, lo dicevo già ieri, ci siano due o tre gravi fatti reiterati da parte dello stesso giocatore che è Inzaghi, che sono evidentemente, io mi auguro, sfuggiti all'arbitro, perché sennò l'arbitro lo doveva cacciare fuori, questo, o sbaglio? Anche su questo. Allora, cominciamo a dire che ci sono due precedenti, precedente di Totti nella partita con l'Udinese l'anno scorso, esatto, e un precedente che è passato sotto silenzio, ma io, siccome ho un po' di simpatie genoane, il precedente di Cassano Genoano nel derby di ritorno dell'anno scorso, che fece una scenata all'arbitro e non fu, e Gasperini se ne lamentò in spogliatoio e tutti rimbeccarono Gasperini dicendo sei poco sportivo, certo. Però qui bisogna mettersi d'accordo, insomma, no, perché le cose che si dicono non si dicono. Vabbè, ecco. Poi però anche questa cosa degli Inzaghi, allora lui ha detto ogni sproposito verso il guardaline, ma il vero problema, cioè chi è da squalificare secondo me non è Inzaghi, è l'abuso di questo tipo di televisione, perché se io vedo 10 volte questa scenetta in serata mi convinco che Inzaghi andrebbe squalificato a vita. È, come si dice, l'enfatizzazione che la televisione produce, perché poi tutti sappiamo che in campo tutti ne dicono di tutti i colori, ma se verba volant, ecco, no? Queste, le parole volano in campo, no? E finché sono volate in campo, invece verba volant, come dire, televisione manet, no? Sì, questo sì, questo sì. Allora la cosa diventa molto più grande di quello che è. Perché... Però, professore, io ti leggo una brevissima mail che mi è arrivata da un parigi, cioè da un italiano che vive a Parigi, Alberto Brignone, che lavora a Parigi, e manda i saluti da sotto la Torre Eiffel e dice, ma... Io ricordo male o la regola una volta era che all'arbitro poteva parlare solo il capitano e se non ricordo male anche in toni abbastanza educati? Sì. Questo, no, è vero. Questo è vero. Questo oggettivamente mi pare che... Però ecco, fatemi fare il professore con una citazione. Facciamo professore. C'è un saggio molto bello di Giampaolo Ormezzano nella storia del giornalismo italiano, quella di Castronovo Tranfaglia, sì, che dice ci sono tre epoche del giornalismo sportivo. L'epoca dell'amore, che è quella dei grandi cantori, degli atleti eroi. L'epoca dell'erotismo, che è quella invece dei tecnicismi, no? Quando sì, entra in gioco l'analisi tecnica della gara, e l'epoca della pornografia, quella in cui noi viviamo, quella sì, in cui vogliamo vedere da vicino, in maniera monomaniacale, in maniera voyeuristica, gli atti, ecco, com'è la pornografia. Allora questo di Inzaghi è un tipico esempio di pornografia, cioè si isola dal contesto un elemento e lo si manda 10 volte, no, come certe immagini pornografiche. Ecco, la cosa è una deformazione, anche questa, è vero quello che dice il nostro amico che fortunatamente per lui è sotto la Tour Eiffel, ecco, è tutto vero che ci sono regole di rispetto, di lealtà che vanno rispettate, no? Però insomma, l'impatto che noi abbiamo sulle parole di Inzaghi è un impatto squilibrato, perché è stato squilibrato dalla vicinanza della telecamera e dalla ripetizione della cosa. Pensando che Inzaghi dovrebbe imparare a comportarsi meglio. E a non cercare di condizionare guardaline, perché niente accade per caso a quei livelli. Senti, però, io ti faccio presente che ti prendo il titolo di Antonio Di Polina stamattina a questo proposito, e cioè di questo reality calcio verso cui si sta andando, anzi cui siamo già dentro. Di Polina, che ce l'ha anticipato ieri qua, dice con molto realismo, guardate che indietro non si torna. Temo di no, però anche lì io distinguerei due cose. No? Una è l'uso di certe telecamere che interpretano visivamente la partita in un certo modo, sì, e questo mi piace, cioè l'idea che si possa vedere la partita da punti di vista assolutamente irrealistici per lo spettatore, ma anche molto significativi dal punto di vista del racconto della partita, questo è bello, è utile, è positivo. L'altro invece è andare negli spogliatoi, ecco. L'altro sì, è fare reali. È il voyeurismo per il voyeurismo. Perché vedere la partita meglio, in maniera più spettacolare, in maniera anche più da vicino, in maniera con un ritmo diverso, questo bene non tornare indietro. Sull'andare negli spogliatoi io credo che si possa anche tornare indietro o stare fuori. O stare fuori del tutto. Distinguerei le due cose. Certo, allora io chiuderei segnalandoti che su YouTube gira, credo da ieri, un'inquadratura, un filmato, ovviamente di quelli, no, pornografici, dicevi tu, nebulosi, eccetera, da cui il primo intervento di Ambrosini su Stankovic, quando Stankovic è solo davanti alla porta, è un rigore clamoroso. Questo ovviamente secondo le immagini, no, di YouTube. E allora possiamo andare avanti tutto il giorno. E allora la proposta potrebbe diventare, ovviamente non discutere adesso perché siamo già quasi fuori tempo massimo, potrebbe essere: ma perché non facciamo due campionati e ne giochiamo uno in campo in cui non ci rompono più le balle nemmeno con la moviola, no? Nemmeno negli studi televisivi, e l'altro invece in cui da moviola YouTube e a tutto quello che vogliono si fa un altro campionato, e così quelli che amano le classifiche virtuali si fanno loro. Possiamo fare così? Forse sì. Un fanta, come si può chiamare? Troviamogli un bel nome. Lo troviamo da qui a domani, perché domani, se tu fossi d'accordo, te lo propongo in diretta adesso, a sorpresa, se tu fossi d'accordo potremmo, per rifarci la bocca, rievocare insieme il 30° anniversario di un personaggio che tu hai molto amato, che si chiama Nereo Rocco. E come potrai non essere d'accordo? Ci stai? Figuriamoci. Allora, appuntamento a domani per questa puntata speciale. Grazie a te, professor Simonelli. Grazie a tutti. Pare ci sia a disposizione un frammento tratto da Sky con l'appello del presidente del Genoa Preziosi a darsi tutti quanti una calmata. Sentiamo. Direi alla mia tifoseria di cominciare a fare un passo. Se vogliamo incitare la nostra squadra, liberi, anzi, grazie, così come avete sempre fatto e farete ancora. Ma ignoriamo se non vogliamo, almeno se non vogliamo applaudire la tifoseria che viene in casa nostra. Almeno ignoriamola, ma l'offesa gratuita è già un sintomo che lo sport non c'è. Direi proprio di sì. Queste sono parole e riflessioni non solo condivisibili, dovrebbero essere l'ABC, io credo, ma dovrebbero, per l'appunto. Filippo ha chiamato dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno signor Galanzini. Dica. Allora, vorrei farle una domanda a lei personale. Sì. Vorrei sapere che ricordo di Sandro Ciotti e di Enrico Ameri, di Roberto Bortoluzzi. Poi vorrei sapere su Mourinho. Io vorrei dire questo allenatore per me si sta illudendo troppo. Io non vorrei che, diciamo, potrebbe perdere lo scudetto nelle ultime giornate, insomma. La ringrazio, la saluto e buonasera. Grazie a lei, Filippo. Andiamo con ordine. Domani, anzi per la verità dopo domani, ma il venerdì, come sapete, questa rubrica è dedicata al basket. Domani cominciamo a rievocare un anniversario lontano, ma indubbiamente molto significativo, perché più ci si allontana nel tempo e più la memoria che resiste di una persona, di un personaggio, significa che quella persona ha avuto una valenza particolare. Quindi domani cominciamo con Rocco e poi un po' alla volta toccherà a tutti, anche ai tre grandi della radiofonia sportiva e calcistica, in particolare italiana, che lei ha ricordato. Fausto ha chiamato la Lodi, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, io volevo segnalare solo una cosa, così una curiosità. Adriano l'anno scorso, quando giocava in Brasile, aveva deciso il derby di San Paolo con un altro tuffo di testa altrettanto goffo e buttato in gol con la mano, ma anche lì gol assolutamente da annullare, però secondo me è più goffaggine nel gesto atletico che altro. E poi avevo una domanda, ma a lei non è sembrato che domenica Mourinho, con quelle sostituzioni lì sciagurate, quasi riesca a perdere una partita che magari bastava mettere un Cruz al posto di qualcun altro e la vinceva in carrozza? Grazie, buongiorno. Per me sì, Fausto, però alla fine chi vince ha sempre ragione. Io ho già detto lunedì che se quei non tanto il primo cambio, perché Vieira, ma i due inserimenti di due difensori, per averne sei alla fine in totale e farsi schiacciare dal Milan anziché andare a colpire il punto debole del Milan, che in quel momento non era certamente l'attacco ma era la difesa, come lo era stato dal primo minuto della partita e come lo è per l'intera stagione, l'avesse fatto Trapattoni, sarebbe stato lapidato, certamente lapidato. L'ha fatto Mourinho ed è stata la grande mossa vincente di questo finale di derby. Ma insomma, così sono sempre andate le cose nel calcio, no? Chi vince ha sempre ragione, a prescindere, avrebbe detto Totò. Da Catania ha chiamato Concetto, buongiorno. Buongiorno, io, complimenti della trasmissione. Io volevo fare i complimenti alle parole di Preziosi. perché io vado a vedere sempre il Catania, che è la nomea che abbiamo alla nostra piazza. Non è un granché. Non è un granché, però le stesse parole, volevo solo stagliare una lancia per il nostro presidente Pulvirenti, che io posso testimoniare, seguo il Catania, sono quella tifoseria tranquilla, come la 90% che va allo stadio a Catania. Però io volevo solo una sua opinione, che come sempre con la pacatezza con cui lei ci delizia, perché non sono un ruffiano, ma veramente una bella trasmissione. Se sarebbe successo a Catania quello che domenica è successo a Genova, cosa sarebbe successo se non veniva la CNN e tutte le TV mondiali in satellite? Non voglio fare il vittimismo solito meridionale. No, non ce n'è traccia. Qua si diceva, qua ci puniscono anche per un petto. Quindi il nostro terrore, vi credo, ogni domenica è vedere che non succede neanche un petardo, perché viviamo nell'incubo di non goderci questi pochi anni che penso avremo in Serie A, perché poi torneremo nel nostro limbo BC, perché purtroppo il potenziale è quello. Concetto, siete talmente a Catania, siete talmente perseguitati dall'informazione e soprattutto dal potere calcistico, che il procuratore federale Palazzi, che ha impiegato 13 o 14 ore a sostenere che secondo lui ci voleva la prova TV per il gol di Adriano, ci ha messo 7-8 mesi per accorgersi che Catania-Roma dello scorso anno, ultima di campionato, si era giocata in un clima palesemente irregolare. Pensi lei che congiura c'è nei confronti di Catania e dello sportivissimo pubblico catanese. Marco da Monza, buongiorno. Salve, volevo farle i complimenti per l'articolo che ha letto a inizio trasmissione. Li faccia a Franco Arturi, giriamoli a Franco Arturi, ripeto, ecco, anche perché, poi, la sua è un'oasi di resistenza umana, ripeto, all'interno della Gazzetta dello Sport. E poi io dico che sono pienamente d'accordo, perché le trasmissioni post partita non le guardo mai. Comunque il mio era uno sfogo. Io sono un tifoso milanista, un giovane tifoso milanista, perché ho 32 anni e volevo dire basta. Basta con le opere pie di Nesta. 3 giorni a inizio settimana si opera. Ma chi l'ha mai visto Nesta quest'anno? Chi è che l'ha mai visto? Cioè, basta con l'opera pia di Emerson. Ma chi è che l'ha mai visto Emerson quest'anno? Basta con l'opera pia Borriello. Ma che fine ha fatto? Marco, mi scusi un attimo, la interrompo un'estate, perché mi sembra Spoon River la sua, e sinceramente, dato che dura un po' Spoon River, non vorrei che passassimo il resto del tempo della trasmissione così. Non discuto su altre scelte e su altri... su altre scelte discutibili. Non credo che Nesta abbia no? volontariamente, o che qualcuno non credo possano esistere, si possa colpevolizzare Nesta in questa maniera, se ha una schiena a pezzi che alla fine ha dovuto operarsi. Credo che prima di ridursi a un intervento che rischia di a un intervento alla schiena che rischia davvero di costargli una volta per sempre la carriera, io credo che aver provato ad esperire tutte le alternative possibili sia stato sia umano che professionale, perlomeno al mio punto di vista. Poi se lei non la pensa così, è liberissimo di farlo. Dario, provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Dottor Lanzini. Niente, una domanda e una risposta velocissima. Secondo lei, no, con la sua onestà rispecchiata, ma. Mi può dare una risposta? Se al posto di Adriano quell'azione l'avesse fatta il nostro pedissier del Chievo, gli avrebbero dato il gol, secondo lei? Dipende se lo vedevano o no, Dario, non la seguo su questo terreno, sinceramente, anche perché l'Inter non stava giocando col Chievo, stava giocando col Milan. Quando si scontrano i poteri forti tra di loro, io non credo che chi è chiamato a giudicare tenga conto del peso dell'una o dell'altra squadra, perché pesano tutte e due, poi che possano pesare un grammo in più o in meno l'uno rispetto all'altra non fa differenza. La domanda me la sarei posta, e come anch'io, se la partita fosse stata un'altra. In ogni caso, anche a Pelissier, e se non a Pelissier, a qualcuno del Chievo sarà capitato un giorno di colpire male un pallone e di non essere magari sicuri se l'ha buttato dentro in un modo o nell'altro. Torno a dire per la milionesima volta che, così come trovo ridicolo che per questo sia stato istruito un processo, sia pure sportivo, sulla base della prova televisiva, certamente quel gol, avendo un minimo di occhi, come ha ricordato Platini prima, lo annullava, un bravo arbitro lo annullava, e a maggior ragione un bravo giudice d'area, come si spera che presto accadrà, lo avrebbe annullato. Gianfranco ha chiamato invece la Foggia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io volevo provocare un attimino. Vada, vada, perché guardi, quelli che provocano in genere provocano un attimino, quindi parta. No, è perché ovviamente nell'imbarbarimento generale della televisione ci sta mettendo dentro anche la Moviola. E questo, a mio avviso, andrebbe un attimino forse anche rivisto, perché sta allontanando tantissime persone appassionate di calcio, ma del calcio vero. E quindi la mia provocazione sarebbe quella di abolire in toto tutte le azioni che possono, diciamo, portare a inasprire gli animi e sostituire questo tipo di moviola con una moviola fatta di tecnica, di tattiche, quindi di far apprezzare alle persone i moduli, gli schemi. Cioè, perché poi vedo che anche i vecchi calciatori che erano abituati a giocare stanno scendendo tutti nella barbarie del criticare l'uno o l'altro, l'allenatore avversario, l'allenatore di quella squadra, di giocatore. Cioè, si sta iniziando a diventare un attimino troppo selvaggia questa situazione. Gianfranco, giro. Che poi diventerebbero disoccupati tantissimi opinionisti. Giro con piacere, Gianfranco, il suo intervento, la sua proposta operativa a tutte le televisioni nazionali e in particolare a quelle locali o ai network pluriregionali, non so come dire, cioè quelli che fanno le trasmissioni più fetenti, per capirci. Da Venezia, Cristian, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare ancora di Adriano, riallacciandomi alla mancanza di sportività a cui si riferiva Preziosi. Io dico una cosa, ma non faceva mica prima Adriano a dire non l'ho presa bene di testa, l'ho presa di mano, il gol non è valido e basta, invece di aspettare un... Questo non lo poteva dire perché non l'ha presa di mano, gli ha dato una mezza bracciata che sono tre giorni che non si capisce bene se sia istintivo o se sia doloso. Io sono per l'istintivo, è successo comunque domenica sera, Cristian. Grazie. Il ripasso di storia quotidiano, Nicola Filippone. Sembra ieri. 18 febbraio 1992. Ai giochi invernali di Albertville, lo sci azzurro guadagna la ribalta conquistando due ori. Il primo è frutto di una prova capolavoro di Deborah Compagnoni, che stravince il Super G infliggendo alla medaglia d'argento la francese Carole Merle un secondo e 41 centesimi di distacco. Il secondo oro porta la firma di Alberto Tomba, che si aggiudica il gigante battendo in una gara palpitante il lussemburghese Girardelli e il norvegese Amot. Tomba bisse il successo ottenuto 4 anni prima a Calgary, diventando così il primo sciatore a trionfare nella stessa specialità in due diverse Olimpiadi. Beh, non era semplice oggi la scelta della data, indubbiamente questa è stata particolarmente felice, però è anche vero che oggi, per esempio, è il compleanno di Roberto Baggio, e sempre per esempio credo che uno di quei record di cui vi parlavo prima di imbattibilità abbia a che fare proprio con la data di oggi. Adesso lo andrò a cercare, ma anche per cambiare argomento mi pare suggestiva la scelta che è stata fatta da Filippone. Torniamo agli amici in ascolto. Guido da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo tornare a quello che sentivo 20 minuti fa sul discorso della prova TV. Io sono un rugbista, un ex rugbista, e quindi trovo un po' la prova TV una sciocchezza rispetto a quello che è la moviola in campo del rugby, per intenderci. Se Adriano l'avessero ritenuto colpevole, dicono, in colpo di mano, annullavano il risultato di Milan-Inter? No, certo. È per questo che è una sciocchezza. Infatti secondo me sarebbe ora il caso di dire che su certe cose, azioni in area da rigore, dubbi e così, che ci sia un quarto arbitro con la moviola in campo, così risolvono il problema, così forse anche gli arbitri sono meno condizionati dall'importanza del blasone, certo, della squadra che hanno davanti, perché finché le loro entrate annuali dipendono da quante partite arbitrano, sarà difficile che siano obiettivi al 100%. Se una società è più forte nel chiedere l'esclusione. Guido, ma lei parla e ragiona e parla così perché è un uomo di sport. Mi sembra forte questo nesso, no? Mi sembra decisivo, anzi, lei è un uomo di sport e quindi ragiona in questa maniera. Come forse avrà sentito, non, diciamo che la sua non è un'opinione maggioritaria, ahi noi. Giampaolo, Roma, buongiorno. Allora, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo farle una domanda. L'eventuale moviola in campo sarà soggetta sicuramente a interpretazioni da parte di tanti, no? Se ascoltiamo pure le TV, i vari opinionisti. Ci dovrà quindi essere un arbitro poi che prenda una decisione. Ci dovrebbe, Ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe, perché poi non ci siamo ancora arrivati per il momento. Allora, se ci dovesse essere, ma come sarà accolta per l'eventuale decisione di questo? A me lo chiede già. A me lo chiede una che già. Una sua opinione, eventualmente una sua opinione, prima di lei, per cui una sua opinione. Ci saranno comunque sempre delle polemiche, perché io ci metterei... sono delle trasmissioni intere che ci sono. Ma io metterei tre comici. Io visto che, lo dico con molto rispetto, intendiamoci, ma visto che il grande opinionista della RAI è diventato Teocoli, io metterei Teocoli da una parte, Abatantuono dall'altra, e sceglierei qualche altro cabarettista e andrei così, visto che la competenza mi pare sia questa e che l'opinabilità poi delle cosiddette sentenze sarebbe tutta, no? Sarebbe enorme, io forse la metterei così, ma le ripeto, lo chieda a chi la moviola la vuole. Io insisto che la butterei fuori dagli studi televisivi, la rottamerei seduta stante se potessi farlo per disinquinare il calcio. Quindi insomma la ringrazio della fiducia, ma proprio solo la persona viene indicata per rispondere. Era Giampaolo da Roma, questo ascoltatore. Quindi passiamo a un altro romano. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare dell'espulsione degli allenatori. Dell'espulsione degli allenatori? Sì, quando viene mandato via un allenatore, poi la domenica successiva comunque va in campo, va in tribuna, poi tra il primo e il secondo tempo va negli spogliatoi, poi ritorna in tribuna e comunque segue sempre la partita e può comandare la partita. E cosa facciamo? Lo mandiamo al confino? No, non lo facciamo entrare nello stadio, perché per esempio, voglio dire la mia, poi magari, per esempio un giocatore non gioca, quindi comunque è un danno per la squadra, l'allenatore no. E io magari pensavo di non farlo entrare proprio nello stadio nella giornata successiva. Un'altra cosa, per quanto riguarda i falli, no, di mano, se noi puniamo tutti i falli di mano in qualsiasi posizione siano, non ci sono più problemi. Certo, quindi siamo sul capitolo riforme in questo, no, in questo caso, ma insomma i falli possono, con la mano il pallone può essere toccato in maniera nettamente involontaria, la maggior parte delle volte involontaria non è, e sono d'accordo con lei, e questa potrebbe anche essere una soluzione un po' estrema, come è estrema l'altra. Sa perché, a differenza dei giocatori, gli allenatori la volta successiva possono comunque in qualche maniera interagire con chi va in panchina, perché gli allenatori contano molto, ma molto meno dei giocatori, e quindi stante la differenza di ruoli e di mansioni contano molto, ma molto meno di chi va in campo, e questo ce lo dimentichiamo sempre più spesso, perché il marketing ce li fa apparire invece come dei Napoleone, quando il calcio era un pochino diverso, contavano molto di più i giocatori e molto, ma molto meno gli allenatori. Sentiamo un frammento in cui Lippi parla di coppe. Non si può mai parlare di squadre favorite, no, è sempre un 50% per uno. Io sono assolutamente convinto che dipende solo esclusivamente da noi. Se noi ci troveremo a questo appuntamento al meglio delle nostre condizioni psicofisiche, dal punto di vista tecnico non abbiamo niente di meno delle tre squadre fortissime inglesi. Era già una proiezione sulla Champions della prossima settimana. Michele è in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, a lei. Senta, io domenica ho visto una partita di basket dove mi sembra che poi ci siano tre arbitri, dove a 30 secondi della fine un macroscopico fallo di passi non è stato fischiato. Penso che la moviola o tre arbitri sia insufficiente. Michele, io la dirotterei subito sul programma del venerdì, perché sinceramente io non ignoro quanti siano gli arbitri del basket, se venga utilizzata o meno la moviola. Non, dichiaro volentieri la mia incompetenza in materia, quindi ne riparliamo venerdì riparlate venerdì in Palla a Spicchi, perché sinceramente è inutile che lei si rivolga a una persona incompetente. Passiamo a Gagliani e sentiamo il punto sulla vicenda Beckham. Stiamo trattando, stiamo Stiamo vedendo, stiamo cercando di risolvere il problema compatibilmente con tutta una serie di cose. Certamente c'è molta volontà da parte del giocatore di rimanere qui, però ci sono i Galaxy, c'è la Lega, insomma tante cose. Ma non è cambiato niente, ma c'è ancora del tempo. Domani vi ricordo che l'argomento portante della puntata sarà un ricordo di Paron Nereo Rocco alla vigilia del 30° anniversario della sua scomparsa, che cade per l'appunto venerdì 20 febbraio. Dalla provincia di Milano ha chiesto di intervenire Silvio, buongiorno. Silvio, no, Salvo, domando scusa, Salvo. La sento bene. Abbia pazienza, ho visto male il nome. Sì, prego, prego. Dica. Spengo la macchina perché mi disturba. Dottor Garanzini? Sì, direi di sì. Avanti, Salvo. Volevo parlare a proposito del gol lì di Adriano. Oh. In questo senso, io Morat penso è un incompetente oppure una persona che fa finta di capire il calcio. Io dico questo qua, sì. Hanno segnato dentro le due porte, sono entrate due gol per parte, due non erano buoni, cosa significa questa faccenda di dire noi abbiamo giocato meglio? Lo sappiamo noi che tante volte non basta giocare meglio per vincere una partita, allora chiudiamo prima di incominciare e dire io sono più forte giocatore per giocatore, io ho vinto e tu hai perso. Su questo qua non so se c'è qualcosa da dire. Si è spiegato perfettamente Salvo e soprattutto ha salvato una tradizione, una statistica mia che coltivo, che l'ultimo intervento in onda dell'ascoltatore, se si potesse, andrebbe sempre eliminato. Purtroppo non lo si può sapere prima, ma è una statistica che ai noi funziona. Grazie, davvero grazie a Valeria Bernardi in regia, a Flavio Suardi in redazione, a tutti voi, appuntamento a domani.